Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Se davvero tu non credessi più a nulla, io non potrei essere qui. E invece eccomi. Ciao Candido. Ciao bella. Hai presente Ornella? Certo. Candido, per favore, no, non è che sta andando tutto male, ancora di più. Ci sono dei problemi enormi, puoi aiutarmi a capire se qualcosa si risolve abbastanza in fretta. Ripetimi ecco. La data, Ornella. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Non è una interferenza, non stiamo rappresentando la situazione, insomma, il contrario di questo andrà tutto bene, che io volentieri correggo con andrà tutto stretto, perché insomma nella quarantena mi sono tenuto un po' poco quanto a pasti. Vedo che annuisce di là dal vetro la incantevole Laura Faggin, quest'oggi badante cara di prossimità. E poi naturalmente mi siete c'è sempre un po' mancati in questi giorni. E guarda, anche tu ci sei mancata e abbiamo dovuto così abbozzare e fare fronte alla tua assenza. Anche Peter Hai Bescapé chiamato il mago Candido? Era un po' solitario. E no, ti spiego perché abbiamo messo questo inserto audio del mago Candido, perché è stato arrestato. Guarda un po', chissà come mai. Guarda, mi stupisce questa cosa, non capisco perché le forze dell'ordine si siano accanite contro questo benefattore della comunità, peraltro, da quello che leggo dalle agenzie. Ma insomma andrei piano con le parole. In ogni caso, secondo la Guardia di Finanza, costui sfrutta la fragilità di persone anziane, ha promesso in cambio di denaro di togliere il malocchio, comunicare con i defunti, eseguire esorcismi, eccetera, eccetera. No, ma poi non contenta la sorte, tutto ciò si è consumato nell'Odigiano, perché se mai questo territorio non fosse già stato abbastanza colpito ultimamente dalle intemperie e dalle congiunture, è proprio, ci mancava pure il mago Candido. Era proprio a Castel Gerundo, che, cara Debora, devi sapere, non solo è uno dei comuni della cosiddetta prima zona rossa, Castel Gerundo, ma poi porta anche un nome storico, perché il lago Gerundo era il lago che anticamente, nei tempi molto andati, occupava questa parte della pianura padana, il lago Gerundo, e quindi da questo Castel Gerundo, così lo dico per far vedere che non è che mi occupo solo di fisco, anche se oggi ci occuperemo di fisco, cara Debora, per festeggiare il tuo rientro. Sei contenta? Sono molto contenta, allora farò una cosa, proprio per come dire, ammorbidire il mio ritorno tra di voi, ti lascerò gran parte della puntata, magari io mi soffermo un po' più sulla prima, così ti lascio come al solito così conversare con i nostri ospiti su uno dei tuoi temi preferiti. Allora, no, il mago Candido non abbiamo raccontato tutto, comunque è stato arrestato, dicevamo, proprio perché continuava, nonostante anche le difficoltà di questo territorio in questo periodo, a rendersi grande protagonista della cronaca cittadina. Peraltro aveva anche di recente regalato, pochi mesi fa, una monovolume per le necessità di servizio come la consegna dei pasti a domicilio agli anziani e un defibrillatore, e quindi cercava anche un po' di confondere le acque sulle sue malefatte. Il brano che abbiamo sentito all'inizio era tratto proprio da una TV locale dove faceva le carte a tutti coloro che in grande difficoltà chiamavano, appunto cercando di intercedere presso la sorte grazie alla lettura dei tarocchi del mago. Vabbè, senti. Allora, io vorrei fare così. Ricordiamo i numeri e gli argomenti. Parleremo nella prima parte della nostra trasmissione, torniamo su una notizia che io ho dato, cara Debora, molto telegraficamente ieri, che è questa decisione di un tribunale che ha stabilito che va risarcito il risparmiatore che aveva acquistato azioni Veneto Banca. Quindi ci inseriamo in questo filone particolarmente ricco, a dir la verità, e quindi rifacciamo un po' il punto, vediamo perché questa sentenza potrebbe essere così importante, e qui siamo un po' sul tuo territorio, cara Debora. Esatto, perché il FIR non ha esaudito ancora tutto lo strascico di questa situazione, quindi anche tutti coloro che possono chiedere l'indennizzo e il risarcimento attraverso questo fondo che è stato appunto creato qualche tempo fa, per la verità ancora anche la giustizia, anche nei tribunali si continua ad andare avanti con delle sentenze su questi casi. Molto bene. Nella seconda parte invece avremo Laura Ambrosi, che è partner di Partito Dipartimento Contenzioso di Legalitax, è un'esperta, una firma nota al Sole 24 Ore, una voce nota anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Due di Denari. Facciamo un po' il punto sulle vicende fiscali, soprattutto in tema di scadenze e di contenzioso, perché un decreto tira l'altro e alla fine non si capisce più bene che cosa sta succedendo, quali sono i termini di decadenza, quanto tempo ha il fisco per controllarci, quando, se stiamo litigando, dobbiamo tornare a litigare, eccetera eccetera eccetera. Quindi sarà un piacere, cara Debora, discutere con la nostra esperta, sì, Laura Ambrosi, e cercare di fare un po' di chiarezza in una situazione, devo dire, in costante evoluzione. I numeri sono i seguenti, prendi nota: 800 24 00 24, se vuoi intervenire in diretta, ma tu in realtà stai già intervenendo in diretta, quindi non ne hai bisogno. Faccio una domanda subito qua seduta stante, ottimo. 349 238 6666, se invece vuoi mandare un sms o un messaggio WhatsApp anche vocale, e anche in questo caso però già stai parlando, quindi magari per te questo numero non è così utile come invece per i nostri ascoltatori. Vuoi cominciare con un giornale radio del risparmio? Abbiamo una sigla d'autore per questa occasione. Ma molto volentieri, certo. Ci dicono spesso di lavarci le mani, ma poi ci ascoltiamo Meazzero Shani. Sì, Mauro, dovremmo anche ringraziarlo Bob Messini, perché non solo ci ha inviato questa nota vocale che utilizziamo molto di frequente come sigla introduttiva del nostro giornale radio del risparmio, ma ha fatto molto di più. In mia assenza in questi giorni ha recapitato alla radio un plico molto prezioso, quindi direi di ringraziarlo pubblicamente. E lo facciamo molto volentieri. Sì, sì, sì, è ben custodito nelle segrete stanze qui della redazione. Allora, a proposito di stanze. Ah già, giusto. Allora, nel caso in cui tu prossimamente dovessi mettere in vendita la tua casa, sai che in questo periodo gli agenti immobiliari hanno fatto molta fatica a svolgere completamente il loro compito, perché erano proprio nell'impossibilità di visitare gli immobili eventuali oggetto di compravendita. E rispetto a questa situazione, via via che il lockdown si è andato allentando e tutte le attività economico-produttive hanno ripreso a marciare, a riaprire, non con poche difficoltà, anche questo è stato uno degli ambiti che ancora non ha potuto cominciare a lavorare di nuovo a pieno regime, perché le visite presso gli immobili appunto abitati erano resi problematici. Tant'è vero che alcune agenzie, Mauro, l'ho saputo in questi giorni, hanno consentito molte visite virtuali, le chiamano le visite digitali, in sostanza, agli immobili messi in vendita. Allora, su questa situazione, che però non era ancora molto chiara, è intervenuta la Consulta Interassociativa Nazionale dell'Intermediazione Immobiliare, è l'associazione che raduna tutte le organizzazioni che rappresentano le agenzie immobiliari, quindi tante agenzie di rappresentanza, tante associazioni di rappresentanza che sono tutte unite in questa consulta, e tutte insieme, siccome l'unione fa sempre la forza, sono andate a Palazzo Chigi e hanno detto: ehi signori, ci consentito o no di portare i nostri clienti a visitare gli immobili proprio, che vogliono comprare? Hanno detto al Presidente, certo, del Consiglio, sì, Conte. Allora. Sì, con molta, molto spicci, molto pratici, e quindi nella sostanza Palazzo Chigi, il governo, ha deciso che adesso si possono, con tutte le precauzioni, le misure di distanziamento, i dispositivi di sicurezza, ritornare a visitare anche quelle abitazioni, quegli immobili, quegli edifici ancora occupati, perché guarda caso, molto spesso le persone che le mettono in vendita, le case, le abitano ancora e chiaramente si spostano magari una volta che la compravendita è stata finalizzata. Ne scrive stamattina l'amica Anna Rita D'Ambrosio sul Sole 24 Ore, naturalmente su Norme Tributi. Nelle pagine Norme Tributi, certo, da leggere sempre, esatto, religiosamente. Bene. E tra l'altro, ecco, religiosamente però, ma non è, lo dico non per scherzo, bisogna anche in queste visite rispettare, come dicevi tu Debora, le misure di distanziamento, sì, ma anche poi arieggiare l'immobile prima di ogni visita, dopo ogni visita, evitare come sempre assembramenti, uscire all'esterno appena possibile, insomma cercare di non ridursi in spazi chiusi per lungo tempo, perché questo appunto è una delle misure che vanno mantenute anche in questa fase. Praticamente abbiamo adesso coniato il termine della visita mordi e fuggi. Se vuoi comprare casa, dai un'occhiata flash. Insomma, vabbè, prima o poi torneremo alla normalità, Mauro. Cosa vuoi che ti dica? Mi sto cominciando a stressare di questa situazione. Intanto non tornerà alla normalità EasyJet, a quanto pare, perché ha annunciato che taglierà il 30% dei lavoratori. Ryanair dimezza la capacità in Italia. EasyJet taglia 4.500 dipendenti, quindi è quasi un terzo del totale dei 15.000 dipendenti. È una misura che il vettore ha ritenuto necessaria per far fronte alla previsione di una ripresa del traffico aereo non prima del 2023, quindi domanda ridotta che si prevede anche nei mesi estivi questi del 2020, e quindi per questo è scattato l'intervento appunto di EasyJet. Ryanair invece ridurrà la capacità in Italia del 50%, stesso motivo, contrazione della domanda, ma addirittura potrebbe esserci anche una riduzione maggiore se il governo confermerà l'aumento dell'addizionale comunale per i biglietti aerei dal 2021. Quindi c'è anche un tema fiscale che condiziona il comportamento di Ryanair. Come al solito il fisco si mette sempre di traverso. In ogni caso, la notizia di Ryanair e di EasyJet ci dà un assist perfetto per introdurre la successiva notizia, che è quella che riguarda le modalità con cui il decreto Cura Italia ha disposto il rimborso di viaggi e vacanze saltate a tutte quelle persone che naturalmente, appunto, a causa della pandemia hanno dovuto rinviare tutti i programmi di viaggio. Come ricorderete, l'articolo 88 bis del Cura Italia ha disposto che gli operatori del settore turistico possano emettere un voucher in luogo del rimborso per ristorare viaggi, voli e hotel cancellati per queste circostanze eccezionali che abbiamo vissuto in questo periodo. Ma che cosa è successo? Che la Commissione europea ha diramato di recente una raccomandazione, lo ha fatto proprio il 13 maggio, con cui ha evidenziato sì che l'operatore può offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Quindi la Commissione europea ha detto è alla fine il consumatore che deve scegliere. Tutto questo ha portato appunto tutta la questione di nuovo ad essere rivisitata anche in Italia, e l'ultima ad essere intervenuta è stata l'Antitrust, l'autorità garante del mercato, che ha inviato una segnalazione a governo e Parlamento dicendo i voucher turistici devono essere rimborsabili. Allora, siccome la tematica ci piace molto, Mauro, io direi il 2 giugno, ti propongo, una mezza giornata di festa che quest'anno in pochi potranno fare, come ponte in pochi se lo potranno godere, direi di approfondire la questione proprio martedì prossimo, e quindi rinviamo il tutto ad una prossima e dettagliata puntata di Due di Denari. Molto volentieri, me lo sono già segnato. Intanto ti segnalo invece che l'INPS ha chiarito i requisiti per i lavoratori domestici per l'indennità. Sai che ci sono 1.000 euro in unica soluzione, sono 500 euro al mese per aprile e maggio. Ha specificato che l'indennità non concorre a formare il reddito, cioè quindi non viene tassata. Però è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 460 milioni. E questo significa che sostanzialmente quando finiscono le risorse non ci saranno ulteriori stanziamenti, o almeno questa è la previsione che possiamo fare al momento attuale. Poi vedremo se il Parlamento modificherà questa norma, che è inserita nel decreto legge rilancio, il decreto legge 34. Ricordiamo che il beneficio spetta ai lavoratori non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano rapporti di lavoro di oltre 10 ore settimanali e un contratto che era attivo al 23 febbraio scorso. Queste le misure essenziali per poter richiedere questa indennità complessiva di 1.000 euro. E tutto ciò premesso, cara Debora, è il momento di Dillo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Buongiorno da Roma, parlate del finanziario, perché non parlate anche delle bollette famose, quelle bollette che 4 settimane, non a un mese? Dovevamo prendere dei soldi noi abbonati, ma non abbiamo visto neanche una lira. Era una bolletta non a mensile ma a 4 settimane, vi ricordate? Che fine hanno fatto questi rimborsi? Ugo da Roma, grazie. E torneremo a occuparcene, Debora. Esatto. Ne abbiamo parlato in qualche decina di puntate, però devo segnalare garbatamente all'ascoltatore. Sì. No, ne abbiamo parlato, l'abbiamo scoperta più e più volte, l'abbiamo, anzi diciamo che l'hai scoperta tu, e addirittura è arrivato un emendamento a un decreto legge, un emendamento ribattezzato Roscianellum, proprio per impedire questa pratica di fatturare a 28 giorni, però ne parliamo volentieri, perché no, ce lo mettiamo in agenda e uno di questi giorni torniamo a chiedere, ma che fine hanno fatto questi rimborsi per le bollette applicate a 28 giorni? Ma ci sono purtroppo tanti argomenti che stiamo trascurando, nostro malgrado il Covid ci ha fatto mettere da parte veramente tanti cavalli di battaglia della nostra trasmissione, e anche ritornando su questi temi sarà anche per noi un po' un ritorno alla normalità, prima o poi speriamo, la mettiamo sicuramente in agenda. E molto adesso bene. Guarda, a proposito adesso... di cavalli di battaglia, il FIR, sì, l'indennizzo dei risparmiatori, le azioni delle banche risolte e quant'altro, c'è appositamente una sigla. Per tante persone che hanno investito in passato in azioni e obbligazioni delle banche che poi sono finite in risoluzione, le quattro banche del novembre del 2015, poi le due venete e poi c'è questa grande incertezza ancora sulla Popolare di Bari, per molti investimenti sfumati o comunque considerevolmente ridotti, per i quali si sono aperte tante procedure di ristoro, prima in via autonoma da parte delle stesse banche, poi su disposizione legislativa. Abbiamo una notizia fresca, ma veramente fresca, perché è di un paio di giorni fa, caro Mauro, che ci arriva direttamente da Brindisi, dove il Tribunale ha emanato la prima sentenza in Italia con la quale è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto di titoli Veneto Banca, l'istituto presso i quali erano state sottoscritti questi titoli era Banca Puglia, che è stata poi incorporata appunto in Intesa San Paolo, e in sostanza Banca Puglia è stata condannata a risarcire a favore di un risparmiatore un importo di ben 81.649.000 euro, interamente appunto investiti in titoli Veneto Banca. Allora, questo risultato lo ha ottenuto l'avvocato Emilio Grazioso, responsabile del coordinamento Confconsumatori dalla parte del consumatore. Avvocato, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno e grazie a voi sempre per il servizio che rendete ai cittadini a livello di informazione. Grazie, avvocato. Deborah, non so cosa, da dove vogliamo partire, perché l'avvocato Grazioso ha spiegato in un comunicato che ieri, di cui ieri ho dato brevissima lettura, che questo potrebbe essere una sentenza che prima di tutto è immediatamente esecutiva, ma ne chiedo conferma, secondo poi creare giurisprudenza, cioè aprire la strada ad altre analoghe decisioni, è così, avvocato? Sì, è una sentenza che da un punto di vista giuridico è destinata a fare giurisprudenza, come si dice nel gergo, nel senso che per la prima volta abbiamo finalmente messo un punto fermo per quanto riguarda la vendita dei titoli Veneto Banca e soprattutto per le modalità con le quali è stata effettuata questa vendita di titoli liquidi, che hanno tutta una serie di particolarità. Avvocato, mi scusi, titoli intende azioni e obbligazioni, perché lei azioni, sa che poi anche per specie, il risarcimento, esatto. Nel caso di specie si trattava di azioni liquide della Veneto Banca vendute attraverso la Banca Puglia. Noi quindi l'azione l'abbiamo incentrata nei confronti di Banca Puglia, che appunto quale intermediaria per violazione della normativa di settore, in particolare della normativa contenuta nel testo unico di intermediazione finanziaria, così come anche delle comunicazioni della Consob in materia proprio di vendita di titoli liquidi. Questo è un tema molto importante, il fatto che sia stato deciso di risarcire azioni, perché ricordiamo, con le ultime norme era stata data anche la possibilità ad azionisti di queste banche appunto di fare ricorso al FIR, al cosiddetto Fondo Indennizzo Risparmiatori, che è stato, come ricorderete, costituito appunto con una legge di un paio di anni fa e che era proprio un istituto chiamato ad indennizzare tutti questi quei risparmiatori che avevano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche, da parte appunto del sistema bancario, che era rimasto, come ricorderete, così invischiato in questi casi di risoluzione. Avvocato, l'aspetto che a me è interessato particolarmente di questo caso, rileggendo un po' la ricostruzione che lei ha diffuso alla stampa, è il fatto che il sottoscrittore di queste azioni avesse acquistato titoli in operazioni ripetute, il che ci lascia come dire, immaginare che generalmente una persona che fa più volte un'operazione di sottoscrizione di titoli lo fa dietro consapevolezza, non si è trattato di un'operazione suggerita una volta allo sportello e che magari può lasciare immaginare che una persona faccia così una scelta magari non proprio consapevole. Come avete gestito questo aspetto davanti al tribunale? Guardi, in questi tipi di divertenze, di questi tipi di controversie, e soprattutto negli acquisti dei titoli delle banche, in questo caso parliamo di Veneto Banca, ma è un copione ripetuto anche in altri casi di banche popolari e delle altre banche andate in default, raramente si può riscontrare l'acquisto in un'unica soluzione, nel senso che più volte ci sono, per esempio nel caso delle banche popolari, penso ad esempio agli aumenti di capitale che vengono poi riproposti al socio, così come anche in questo caso è stato proposto in più tranche nell'un arco di tempo di 3 anni l'investimento appunto in queste azioni della Veneto Banca. Il problema di fondo è dato dalla ricostruzione appunto del profilo di rischio dell'investitore. In questo caso l'investitore è una persona che non aveva assolutamente una propensione a rischio alta, da un lato per l'età e per il fatto che viveva del proprio lavoro, che è una persona che vive del proprio lavoro, quindi comunque non ha una disponibilità economica se non quella dei risparmi di una vita all'acquisto di titoli rischiosi. Nello stesso tempo è anche una persona che assolutamente non aveva un curriculum finanziario che potesse far emergere una propensione a rischio alta, o comunque sia l'investimento, il puntare i risparmi, appunto ha detto lei prima, oltre 80.000 euro, quindi risparmi veramente di sacrifici di una vita, su un titolo con la consapevolezza che fosse un titolo a rischio. Infatti, ripeto, dalla descrizione che è stata fornita dal risparmiatore stesso anche nell'ambito dell'azione giudiziaria è stata proprio quella, nel senso l'unica consapevolezza che aveva per le informazioni che gli erano state fornite è che si trattava di titoli sicuri, senza rischio alcuno per il capitale che era stato investito, e purtroppo questo è stato il fattore determinante per porre in essere questo tipo di investimento. Grazie avvocato Grazioso, Emilio Grazioso, responsabile del coordinamento Conf Consumatori dalla parte del consumatore, e magari torneremo a disturbarla, perché mi pare di capire, Debora, anche dai messaggi che stanno arrivando da molti ascoltatori, davvero, che questa vicenda di FIR, banche risolte eccetera non sia, perdonami il bisticcio, risolta per nulla. Nel frattempo però è il momento di ascoltare le borse. 10 e lode come sempre. Grazie. Come tutte le mattine vi trovo di una preparazione ad Amantina. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Ciao ragazzi, Altro cavallo di battaglia vostro è la tassa sui rifiuti applicata dai comuni anche a cantine, garage, eccetera. E quella che fine ha fatto? Le pertinenze, Mauro, una domanda pertinente. La pertinenza, sai, è come il vento. Non era così la canzone, ma il problema è che lì ci sono state delle decisioni di commissione tributaria, e quindi l'occasione è ghiotta per entrare nell'argomento successivo. Decisione di commissione tributaria che, dopo un indirizzo favorevole al contribuente, invece hanno preso una piega favorevole ai comuni. Quindi, insomma, non si è più neanche certi che, rivolgendosi al giudice del fisco, si possa ottenere il diritto al rimborso. Per quello, un po', diciamo così, la questione si è un po' si è arenata, ecco, parliamo in questo modo. Intanto vorrei dare il bentornata a Due di Denari a Laura Ambrosi, partner del Dipartimento Contenzioso di Legalitax, esperta per il Sole 24 Ore, firma del Sole 24 Ore e voce spesso su tematiche fiscali di Due di Denari. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, cara Deborah, io ti devo confessare che mi sto perdendo. Non so più. Se perdete voi due, io mi eclisso direttamente, mi metto qua a prendere appunti, perché qua ci affidiamo solamente ai santi commercialisti e tutta la varia pletora di santi distribuiti presso i centri di assistenza fiscale, perché ormai dobbiamo solo raccomandarci alla loro pietà. Ma allora, vorrei cominciare dalle cose molto elementari, mi perdoni dottoressa Ambrosi, il 730 è il modello redditi, a questo punto come ci dobbiamo regolare? No, che termini questo, abbiamo? Per adesso non dovrebbero essere cambiati i termini, abbiamo i versamenti al 30 giugno e eventualmente la seconda rata adesso al 30 novembre, quindi su questi dovremmo andare abbastanza tranquilli. Tra l'altro anche nel sito dell'Agenzia delle Entrate adesso hanno reso disponibile il 7.30 la precompilata, quindi la possibilità di accedere, e dal 19 maggio è possibile addirittura fare l'invio, quindi dovremmo essere, salvo ulteriori modifiche in questi giorni, su questo essere abbastanza tranquilli. E poi c'è anche tutto il resto, in realtà, che ha subito parecchie modifiche, che si sono incastrate forse non molto bene, diciamo, con i pregressi decreti, e quindi è lì un po' il problema. Infatti, allora, aspetti, prego. Perché intanto volevo ricordare una cosa, anzi le chiedo conferma. Per quanto riguarda il 730, chi chiude a credito e quindi attende il rimborso, di questi tempi capisce che è un tema delicato, il rimborso però è collegato alla data di presentazione, cioè presentando il 730 entro giugno, il rimborso è atteso a luglio. Se si va più avanti, il rimborso arriva ovviamente a presentare il 7.30, il rimborso arriverà più avanti. Esatto. È corretto? Benissimo. Sì, attualmente dal 19 maggio è possibile l'invio, quindi teoricamente chi ha già tutto pronto può già procedere all'invio, in modo che potrà ottenere quanto prima, salvo, ripeto, ulteriori modifiche, il rimborso direttamente in busta paga. Per i pagamenti invece sono rimasti a fine giugno, perché anche chi fa il 7.30 potrebbe dover versare delle somme, quindi non necessariamente così. Dopo lì potrà scegliere, potrà fare anche unico ad esempio, quello sì. Allora, invece tutto il resto diceva... Esatto, siete partiti con le cose semplici, adesso non vorrete mica, come dire, sfuggire alle vostre responsabilità. No, per carità. Da dove vogliamo cominciare? Dalle liti? Allora io comincerei da un'altra cosa facile, ecco, diciamo così. Allora, versamenti di ritenute sui dipendenti, IVA addizionali, che sono i versamenti che devono fare normalmente le imprese, ecco, diciamo così, per chi ha determinati requisiti sono state rinviate al 16 settembre 2020 e possono essere versati o in un'unica soluzione o in quattro rate. Qui la difficoltà è capire se ci sono meno requisiti, perché bisogna verificare il fatturato, se c'è stato il calo, la tipologia di imposta, quindi non è proprio una cosa generalizzata, cioè non tutti i versamenti né che automatica. Nei mesi di marzo, aprile, maggio sono rinviati. Bisogna vedere il tipo di versamento e la tipologia di contribuente. Perché il punto, interrompo solo per un attimo, è proprio questo, che in realtà, diciamo, in certi momenti abbiamo avuto un po' la sensazione che fosse tutto bloccato, tutto rinviato, tutti gli adempimenti trasferiti in avanti, e quindi in realtà è bene che ognuno faccia la sua verifica personale, esatto, sia che si tratti esatto. di un individuo, singolo contribuente, che soprattutto di impresa. Dottoressa Ambrosi. Esatto, cioè è bene verificare la propria posizione i propri requisiti e quindi capire se si ha questo rinvio o meno, sostanzialmente. Ecco, diciamo che non si può dire che in via generalizzata è tutto stato rinviato a settembre, perché non è così, e quindi si rischierebbero degli errori. Un'altra cosa abbastanza semplice è per la rottamazione ter. Allora, chi è in regola? Sostanzialmente potremmo individuare due casistiche, ecco, diciamo così. Chi era in regola con tutte le rate del 2019 può pagare tutte le rate del 2020 entro il 10 dicembre. Attenzione, perché è una data tassativa per il momento, quindi salvo modifiche che potranno intervenire. Quindi questo 10 dicembre non è prevista la tolleranza che invece avevano introdotto con l'ultima rottamazione dei famosi 5 giorni, cioè quindi anche se pago entro 5 giorni comunque sono salvo, ecco, diciamo così. È in vero. Questo caso il 10 dicembre è tassativo, quindi io, se sono in regola con le rate 2019, posso pagare tutte le rate del 2020 al 10 dicembre. Quindi faccio un versamento cumulativo entro il 10 e non oltre il 10. Importantissima questa cosa, perché i 5 giorni di tolleranza non ci sono. Diciamo per adesso, poi se domani faranno un'altra norma e cambieranno le cose, questo ad oggi non lo sappiamo. Le ritelefoniamo. Esatto, il 10 dicembre è fisso, ecco. Chi invece non fosse in regola con le rate 2019 può presentare la domanda di rateizzazione. Questa è una cosa importante, perché non era prevista. Quindi chi oggi avesse questa situazione, quindi nel 2019 non ha pagato tutte le rate, può presentare una domanda normale, come si fa normalmente per le cartelle di pagamento, di rateizzazione, quindi anche attraverso i canali telematici di Agenzia delle Entrate e Riscossione, e quindi portare a casa sostanzialmente il pagamento del dovuto del 2019 in più rate. Questo dovrebbe quindi consentire poi di regolarizzare la posizione della rottamazione ter. Faccio una precisazione un pochino pedante, come mi rimprovera spesso giustamente Deborah. Stiamo parlando della rottamazione ter, che non c'è in questo momento una riapertura, perché su alcuni giornali, compreso il Sole 24 Ore, si sta ragionando di queste cartelle incagliate, per dir così, perché il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, appunto, ha spiegato che una buona metà dei 950 e passa miliardi di pretese del fisco, in realtà di pretese della riscossione, non sono materialmente esigibili, e l'impresa non c'è più la persona fisica debitore, eccetera eccetera, quindi forse ci sarà un altro intervento, per così dire, di agevolazione, ma al momento, lo ripeto, non c'è nulla. Stiamo ragionando della rottamazione che uno aveva già cominciato l'anno scorso, esatto, e che sta proseguendo, ragionando sul differimento delle rate che già erano in scadenza, quindi niente di nuovo. C'erano le rate che comunque chi ha aderito alla rottamazione avrebbe dovuto versare in questi mesi, ecco, non è una nuova rottamazione, attualmente non è stato previsto niente del genere, ecco. Quindi per adesso si tratta del vecchio. Poi è verosimile, come dicevamo, che probabilmente qualcosa si farà, perché effettivamente la situazione cartelle esiste, non è un problema irrilevante, ecco. Tant'è vero che lo vedremo a brevissimo, addirittura proprio per evitare anche una notifica eccessiva di atti, hanno previsto un differimento anche dei termini di decadenza, adesso li vedremo. Ma allora quindi... aspetti, ho capito dove vuole portarci, cioè questi 2 anni in più che il fisco ha ottenuto per poter controllare la nostra correttezza di contribuenti, però tutto questo glielo farei spiegare dopo il traffico. Di denari. Deborah, io non ho capito benissimo, però adesso me lo faccio spiegare, ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Laura Ambrosi, esperta del Sole 24 Ore, però io ti dico questo: ho capito che non buttare mica le carte delle dichiarazioni dei redditi degli anni passati, aspetta un momento, prendi nota. Infatti. Perché adesso la dottoressa Laura Ambrosi ci spiega che cosa hanno deciso sulla materia. Prego. Allora, grazie. Allora, Per quanto riguarda, diciamo, in generale, ecco, mettiamola così, gli atti impositivi, e per atti impositivi intendo accertamenti, cartelle, avvisi bonari, ci sono da fare una serie di distinzioni per capire i pagamenti. Allora, gli avvisi bonari, che erano stati grandi esclusi, per così dire, nei pregressi decreti, finalmente hanno trovato una loro collocazione. E nel decreto rilancio è stato stabilito che l'avviso bonario scadente tra l'8 marzo e il 31 maggio, quindi l'avviso bonario, ricordo, è quella comunicazione che manda l'agenzia, secondo la quale, non so, ha ravvisato una serie di errori nella dichiarazione presentata e concede 30 giorni per pagare con una sanzione ridotta ad un terzo, quindi una misura del 10%. Allora, se i 30 giorni scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio, il pagamento può essere fatto al 16 di settembre o in un'unica soluzione o in 4 rate. Per le cartelle dovrebbe essere questa la disposizione, sono sospese le notifiche fino al 31 di agosto e comunque il pagamento è rinviato al 30 di settembre 2020. Ok. Quindi e anche lì è possibile presentare una domanda di rateizzazione entro il 31 agosto. In questo modo, quindi, al 30 di settembre inizio ad esempio a pagare la prima rata se ho ottenuto la rateizzazione. Questo rinvio quindi vale anche per cartelle che ho già ricevuto? Esatto, le cartelle che ho già ricevuto, i cui 60 giorni, che normalmente quando ricevo una cartella ho 60 giorni di tempo per pagare, scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio. In questo caso quindi sono slittate, diciamo così, a fine settembre, perché il pagamento è sospeso fino al 31 di agosto. Fin qua diciamo che non è proprio semplicissimo, ma si riesce a trovare ce la possiamo fare. La complicazione vera riguarda l'impugnazione o l'eventuale pagamento degli avvisi d'accertamento. Allora, gli avvisi d'accertamento sono quegli atti che con i quali normalmente l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane rettificano la dichiarazione o una determinata posizione del contribuente, pretendendo quindi delle imposte. Entro 60 giorni si può provvedere al pagamento con le sanzioni ridotte, oppure si può presentare ricorso. O l'altra possibilità è di presentare l'istanza d'accertamento con adesione, cioè quindi sostanzialmente aprire una sorta di contraddittorio con l'amministrazione al fine di trovare un possibile accordo. Esatto, perché l'accertamento con adesione è più o meno dire vabbè, parliamone, potrei anche riconoscere che non sono proprio esatto. In regola, ma vediamo, perché non tutto quello che, caro fisco, mi stai chiedendo secondo me è corretto. Esatto, questa possibilità consente, cioè prevede la norma, una sospensione dei termini, quindi dei famosi 60 giorni di cui parlavamo, di 90 giorni. Allora, questo praticamente complica tutto. Perché? Allora, se io ho un accertamento notificato e in cui 60 giorni mi scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio, ok? Allora, in questo caso il pagamento di questo accertamento slitta al 16 di settembre. Sì. Però non devo aver presentato l'istanza d'accertamento con adesione. Perché? Invece ho accettato di discutere con il fisco. Allora, in questo caso devo fare un altro calcolo. Perché? Perché non si tratta di un accertamento in cui 60 giorni mi scadono in questo periodo. Ok? Sì. Ma in realtà, avendo io presentato prima di questa data l'istanza d'accertamento con adesione, ok, mi sono portato a casa 90 giorni in più e non sono in questa fase. Quindi, sostanzialmente, per andare a capire che cosa e quando devo pagare, quindi, ovvero quando devo impugnare, devo andare a capire innanzitutto in che fase processuale sono, quindi ho presentato l'istanza d'adesione o meno, quando ho avuto la notifica, quando scadono i termini. Una volta che ho capito questo, riesco a capire quando posso pagare o quando posso presentare il ricorso. E attenzione, purtroppo è necessario fare tutti questi ragionamenti, che sono assolutamente complessi, perché non possiamo, come dicevamo prima, dire che c'è stato un rinvio generalizzato al 16 di settembre, perché sennò sarebbe semplice, no? Tutto va al 16 settembre. Invece no. Non essendoci stato questo rinvio generalizzato, è necessario fare questa valutazione preliminare perché il rischio è che se arrivo tardi il mio ricorso è inammissibile. E quindi ho perso sostanzialmente, non e ho... quindi devo pagare la cifra intera, cioè per adesso non esiste una sorta di bonus o di sanatoria che mi rimette nei termini. Certo. Quindi a causa di questo è necessario fare questa valutazione che è fondamentale. Sostanzialmente abbiamo provato, giusto per avere un quadro, non dico preciso perché è difficilissimo averlo preciso, no? Però cercare di trovare le famose regole che aiutano a risolvere i problemi. Allora, abbiamo sostanzialmente individuato la data, in base alla data di notifica, che cosa può succedere a quell'atto. Quindi abbiamo detto, allora, per gli atti notificati fino all'8 dicembre 2019, che ci sia l'istanza di adesione o meno, comunque non rientra in nessun tipo di sospensione. Perché quindi sono passati 60 giorni e i 90 giorni. 60 più 90, esatto, sono comunque passati, quindi non rientrando nel periodo, diciamo, di sospensione Covid, chiamiamolo così, comunque quelli lì non mi interessano. E non ce li toglie nessuno, peraltro, per questo, perché anche questo no. È importante, cioè dobbiamo... Esatto. Dobbiamo dargli il credito. Invece, dal 9 di ottobre 2019, se è stata presentata l'istanza di adesione, per capire quando pagare o quando proporre ricorso, devo sommare alla data di notifica 214 giorni. E sono 60 giorni normali, 90 giorni di adesione, più 64 giorni della pausa Covid, che è prevista dal 9 marzo all'11 maggio, sono 64 giorni. Ok, e quindi anche qua, diciamo, potrebbe essere abbastanza semplice, però devo andare a capire quando è stata fatta la notifica. Sì, data chiave 9 ottobre, quindi, 9 ottobre 2019. Dal 9 ottobre in avanti, esatto. Però devo fare ulteriori precisazioni. Ad esempio, dal 9 ottobre fino al 6 gennaio, senza istanza di adesione, non ho nessuna sospensione Covid. Perché? Perché i 60 giorni non arrivano al 9 marzo. Sì. Mi finiscono prima. Diverso invece sono gli atti notificati dal 7 gennaio 2020 all'1 aprile 2020, per i quali non è stata presentata l'istanza. Poiché la quiescenza, cioè il pagamento entro 60 giorni, scadrebbe tra il 9 marzo e il 31 maggio, ho in automatico questo slittamento al 16 di settembre. Quindi possiamo dire che per tutti gli atti notificati dal 7 gennaio al 1 aprile, per i quali non è stata presentata l'istanza accertamento con adesione, ho questo slittamento al 16 di settembre. Esatto. Questo slittamento vale sia per il pagamento sia per il ricorso. Allora, abbiamo tre minuti circa, forse qualcosa meno. E vorrei chiudere con una buona notizia, cioè, o forse non lo è, i due anni in più per il fisco per controllare, però forse vuol dire che non ci mandano cartelle per un po' di mesi? No, che allora, succede? Non hanno eliminato i due anni, non sono più due anni, in realtà è solo un anno, ma hanno complicato la vicenda perché hanno suddiviso sostanzialmente l'adempimento. Quindi l'agenzia entro il 31 dicembre 2020 deve emettere gli atti in scadenza, che poi potrà notificare entro il 2021. Questo quindi cosa vuol dire? Che il contribuente, per verificare che sia stata rispettata, che sia stato rispettato il termine di decadenza, dovrà andare ad indagare su quella che è stata la data di emissione di quell'atto. E solo da lì potrà sapere se effettivamente è stato rispettato, perché deve essere emesso entro fine anno e può essere notificato entro il 2021. In questo modo, da quello che sembra, che si legge anche nella relazione, l'obiettivo di questa nuova disposizione è evitare che ci sia un eccessivo accumulo di notifiche a svantaggio a fine 2020. Quindi esatto. Aspetti, vediamo se ho capito bene, così sfruttiamo quest'ultimo minuto a beneficio. Il termine di rinvio di due anni in più per fare gli accertamenti non c'è più. No. Gli uffici del fisco dovranno fare i controlli entro il 2020, però potranno inviare queste contestazioni nel tutto il 2021, che vuol dire però dal 1 di gennaio al 31 di dicembre, se capisco bene. Cioè dal 2 gennaio ad arrivare al 31 dicembre 2021 potranno essere inviate le contestazioni che sono state formate dagli uffici del fisco nel 2020. Emesse. Grazie, sì. Scusate la imprecisione. No, Deborah, ti posso isolarmi con una domanda di un'ascoltatrice che è arrivata alla mail proprio in questo istante, Franca, quindi vi chiedo chiedo un gioco di sintesi rispetto a tutto quello che avete detto per andare al punto sul caso della nostra amica. Le rate in corso di pagamento su avvisi bonari per irregolarità già rateizzati sono rate sospese? Sì, se scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio, sì, a mio avviso vanno al 16 di settembre. Bene, quindi allora, ancora una volta Franca vada a ricontrollarsi. Io adesso, Deborah, non vorrei deluderti. Tutto questo vale in questo momento a normativa vigente. Poi sì, se succederà qualcos'altro ritelefoneremo alla dottoressa Ambrosi, la quale è pregata di non lasciare il paese, ma di restare a disposizione di Due di Denari. Grazie molto, dottoressa Ambrosi. Deborah. Grazie, a presto. Sì, ci risentiamo naturalmente lunedì. A tutti i nostri ascoltatori, buon fine settimana. A lunedì.